in primo piano. L'apertura del giornale è quasi unanime, vale a dire la notizia diffusa ieri in serata dalla procura di Trani che Berlusconi è indagato. Berlusconi indagato, attacca i PM, Corriere della Sera, per Repubblica, Rai, ecco le accuse a Berlusconi. La Stampa, a Trani violata la legge, è una frase di Berlusconi. Per il giornale, Silvio accusato di tutto, manca solo l'abigeato, che poi è il furto di bestiame. Libero, barzelletta su Silvio, indagato. Per il Messaggero, Trani, Berlusconi indagato. L'apertura dell'Unità invece è sulla questione della par condicio, che insomma ha deciso il CDA della Rai, non ci sono i talk show. E poi mette una foto di Berlusconi e Minzolini, il direttore del TG1, con il titolo Zimbabwe, perché sapete che il direttore generale della Rai in una di queste intercettazioni avrebbe definito così manco in Zimbabwe le pressioni che riceveva, non lui direttamente, ma che venivano ricevute dal membro dell'Agicom Innocenzi. Dunque Berlusconi, come detto, è indagato, il premier è indagato per concussione e minacce, ecco le accuse della procura, pagina 3 del Corriere della Sera. Sono a Trani, mi hanno fatto un sacco di domande. È una intercettazione chiave, è il 17 dicembre del 2009, il direttore del TG1 Augusto Minzolini esordisce così al telefono con un parlamentare, non viene identificato, in alcuni giornali viene detto è un uomo dell'entourage di Berlusconi. Cosa è successo? È successo che Minzolini è stato appena interrogato dal PM Michele Ruggero, quello che indaga Trani, il quale gli dice: guardi direttore, il verbale è secretato, non dica una parola con nessuno. Ma Minzolini, secondo il Corriere, decide di ignorare la disposizione. Appena finito l'interrogatorio, ancora quando è all'interno della procura di Trani, questo si evincerebbe dal cellulare da dove fa questa chiamata, chiama subito sul cellulare un parlamentare e riferisce il contenuto del colloquio appena avuto col magistrato. Sono a Trani, mi hanno fatto un sacco di domande. Tra l'altro questa telefonata è chiave per dire, far dire alla procura di Trani, ecco perché la competenza della procura di Trani c'è, perché si è detto ma come, se riguarda il Presidente del Consiglio la competenza è a Roma. E invece quella telefonata di Minzolini, appena finito l'interrogatorio, a un parlamentare o a uno dell'entourage di Berlusconi, secondo per esempio Repubblica, per dire mi hanno fatto tante domande, è la dimostrazione che la procura di Trani è competente. Perché? Perché quella telefonata Minzolini l'ha fatta proprio quando era a Trani come territorio. Le accuse a Berlusconi, concussione e per il reato previsto dall'articolo 338 del codice penale, un capo di imputazione riservato a chiunque usi violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo, giudiziario o a una rappresentanza di esso o ad un qualsiasi pubblica o una qualsiasi pubblica autorità per impedirne in tutto o in parte o per turbarne l'attività. Questa è la dicitura dell'articolo del codice penale. Per invece Innocenzi, cioè colui dell'Agicom che riceveva le chiamate da Berlusconi, le pressioni secondo la procura per far chiudere alcuni programmi Rai, anche lui è indagato, favoreggiamento, perché sarebbe sì stato una vittima delle pressioni del capo, come lui chiama Berlusconi, ma lo avrebbe poi comunque aiutato a definire i passaggi per bloccare il programma che il Presidente del Consiglio non avrebbe mai voluto vedere sugli schermi della Rai. Queste sono le accuse. Ci sono già le reazioni, interviste. Berlusconi ha detto è stata violata la legge. Oggi arrivano gli ispettori mandati dal ministro Alfano, dovevano arrivare credo ieri, arrivano oggi. C'è il filone del CSM, perché tra le intercettazioni c'è anche il Cosimo Ferri del CSM, è stato intervistato a pagina 2 della Stampa. Le mie conversazioni con Innocenzi mi auguro che vengano pubblicate tutte, perché in quelle registrazioni non c'è nulla di compromettente. Ecco qui, parlavo con Innocenzi, con lui chiacchierate accademiche, parlavamo di alcune trasmissioni, Porta a Porta, Anno Zero. Certo, lui sosteneva di non condividere che i processi, prima che in tribunale, si facciano in televisione, e anch'io la penso così, come tanti altri magistrati. Per Innocenzi, Anno Zero non rispettava alcune normative di riferimento e voleva approfondire con me il tema, dice Cosimo Ferri. Io sono contrario alle trasmissioni che anticipano e celebrano giudizi simulati contestualmente alla celebrazione dei processi veri. Cioè Cosimo Ferri, che è accusato in qualche modo di avere dato consigli a Innocenzi su come chiudere le trasmissioni, in realtà dice: voleva con me scambiare delle opinioni, e parlavamo del fatto che alcune trasmissioni facessero dei processi o si occupassero di processi in TV prima dei processi invece nelle aule giudiziarie. Questa è la situazione per quel che riguarda l'inchiesta. Tra l'altro il Corriere racconta anche a pagina 5 Calabrò e la gara di esposti e telefonate per convincerlo a fermare Anno Zero. Calabrò è il presidente dell'autorità Agcom. Si racconta in questo articolo di Paolo Conti come Calabrò abbia in qualche modo respinto tutti i tentativi di assalti. C'è anche una telefonata dello stesso Berlusconi: ma sta vedendo Anno Zero? Era la puntata su Nicola Cosentino, sul sottosegretario Cosentino. Veramente sto seguendo un documentario, risponde Calabrò. Ma è una cosa indegna, dice Berlusconi. E Calabrò: presidente, domani visioneremo la registrazione e se ci saranno gli estremi interverremo. Buona serata. Poi la registrazione viene visionata il giorno dopo, ma gli uffici dell'autorità non riscontrano irregolarità. Lo stesso Calabrò risponde in qualche modo a Mauro Masi in una lettera, e l'oggetto è il contratto di travaglio ad Anno Zero. Secondo Masi, insomma, Masi interpella la Agcom per dire: ma possiamo sostanzialmente fare il contratto a uno che ha avuto una querela per una famosa puntata in cui parlò di Schifani da Fabio Fazio? E Calabrò, insomma, respinge dicendo: noi siamo un'autorità che possiamo valutare dopo, cioè dopo che uno dice qualcosa, non ex ante. E questa, insomma, è un po' la cronistoria di come Calabrò, anche poi ai legali di Cosentino, che hanno cercato di impedire la puntata di Santoro, ai legali di David Mills, che hanno cercato di impedire una puntata sul caso Mills, appunto, e Berlusconi, e le risposte fotocopia di Calabrò sono sempre state: io non posso farci nulla, non posso intervenire prima, eventualmente possiamo intervenire dopo. Mentre sicuramente tra le interviste vince oggi, è la seconda volta che vince un'intervista di Beatrice Borromeo, lo devo dire, a mio modo di vedere, l'intervista del giorno è Il Fatto, che intervista Minzolini. Minzolini è uno che definisce Travaglio il raglio del travaglio, cioè il giornale Il Fatto lo definisce il raglio del travaglio. E quindi voi vi stupirete: ma come concede un'intervista proprio al Fatto? Infatti Beatrice Borromeo a pagina 2 dice: complice l'autista che non si fa trovare al punto dove deve prelevare Minzolini, gli mettiamo un microfono e Minzolini si concede, anche se un po' infastidito. Infatti leggete il tenore dell'intervista: direttore, perché ha mentito a milioni di persone dicendo che l'avvocato Mills è stato assolto? Non ho mai mentito. Non è vero che il TG1 ha detto è stato assolto? In 8 edizioni del TG1 ho detto quello che dovevo dire, poi c'è stata una sintesi. Lei è stato intercettato, chiede Beatrice Borromeo, mentre dice a Berlusconi che al suo richiamo lei è sempre pronto. Questo lo dice lei, dice Minzolini. Ma prima delle dichiarazioni di Spatuzza ha anche detto che se a Palermo fanno qualche scherzetto intervengo io. Lei dice questo, lei. Lei era in contatto con la cricca, ribatte la Borromeo. Non sapevo di essere intercettato. Quello che ho detto lo ripeterei adesso. Lei ha mai assecondato richieste del ministro Tremonti di dare meno spazio a Brunetta? No, assolutamente no. Sembra un interrogatorio da verbale di polizia più che altro. Direttore, le pare corretto essere a disposizione del premier? Questa è la domanda. Io non sono a disposizione, io lo sono come lei è a disposizione di Travaglio, gli risponde Minzolini. Insomma, il tenore dell'intervista continua così: è vero che lei ha minacciato i giornalisti del TG1 perché appoggiassero la mozione a sostenere la sua direzione? Ma le pare, risponde Minzolini. Guardi, che poi a un certo punto gli dice: guardi, sul titolo di Mills e la prescrizione, per quanto riguarda il titolo, c'è una scuola di pensiero, e se lei studia probabilmente se ne accorgerà, che dice che si può utilizzare nel linguaggio volgare della televisione un termine del genere. Vabbè, insomma, questo è un po' il tenore. Poi ogni tanto Minzolini infastidito chiama l'autista: ma dove sei? Ti sbrighi per favore, come se non volesse continuare questa intervista, Beatrice Borromeo, che dice poi oggi, da oggi ci sarà tutto l'audio anche di questa intervista sul sito del Fatto. Il Fatto che titola: sì, è indagato, concussione e minacce. Questo in primo piano. Mentre dal punto di vista delle intercettazioni c'è tutto il tema su pubblicarle o non pubblicarle che ritorna annoso. Il presidente della Commissione Giustizia Berselli del PDL dice: ora basta, convocherò i senatori anche in seduta notturna per fare presto sulla legge alle intercettazioni approvata alla Camera in attesa al Senato. Quando, gli chiede Francesco Grignetti sulla Stampa, il prima possibile, questa settimana no, poi c'è perché c'è il decreto del governo che fissa la competenza dei reati di mafia nei tribunali, poi la settimana seguente c'è la pausa elettorale, poi c'è Pasqua, si comincia il 7 aprile, due giorni dopo Pasquetta, andremo avanti spediti e dentro e non oltre il mese di aprile il testo sarà pronto per l'aula. Poi Berselli dice: è inaccettabile che un presidente del Consiglio sia intercettato mentre esprime personali valutazioni su trasmissioni TV, valutazioni che poi è quello che dice sempre in pubblico come in privato. Anche i giornali di centrodestra sono molto duri. Libero il giornale, come detto Libero, il giornale: Silvio accusato di tutto, manca solo l'abigeato, mentre barzelletta su Silvio, è indagato. È Franco Bechis su Libero che dice: la sapete l'ultima, quella su Silvio Berlusconi, indagato a 2 settimane dal voto. E tutti: ma questa è vecchia, vecchissima, eppure è la barzelletta che funziona meglio sotto le elezioni. Anche stavolta Berlusconi è indagato a Trani. Il reato, scrive Bechis, è gravissimo. Gli è scappato un vaffa, forse più di uno, al telefono nei confronti di Michele Santoro. Comunque la pensiate, siamo in campagna elettorale, invece di parlare dei problemi che riguardano le nostre regioni, siamo qui a parlare di queste cose e temo che di problemi delle nostre regioni si sentirà zero e poi si andrà a votare. C'è tutta la questione anche del bavaglio, secondo alcuni, o invece del rispetto giusto della legge a par condicio, secondo altri. Il consiglio di amministrazione della RAI ha deciso, dopo che il TAR ha accolto la richiesta delle TV private di bocciare questa sorta di bavaglio par condicio, il CDA della RAI ha detto: no, noi continuiamo così, cioè nessun talk show, tanto che il manifesto, che titola Talk Show, ma show alla napoletana, show, cioè via, Talk Show, mette in prima pagina una vignetta di Vauro. RAI, il CDA conferma lo stop dell'informazione, con un Berlusconi sghignazzante che dice: e stavolta senza manco bisogno di una telefonatina. Anche se vince sempre, scelgo due graffi così, vignette eccetera, i graffi, vince Riccardo Barenghi, Iena, pagina 3 della Stampa: ridateci Talk Show, che ci siamo stufati di divertirci la sera. E vabbè, c'è molto su Repubblica, Garimberti, il presidente della RAI, dice: sono amareggiato, c'è Floris che porterà la TV nelle piazze. C'è però, su questo devo segnalare il dossier del Messaggero, che mette Messaggero, un dossier della Gcom peraltro. Le elezioni si avvicinano, l'agenzia delle comunicazioni ha fatto i suoi calcoli relativi all'informazione pubblica e privata nelle TV italiane. Quanto spazio viene dato ai partiti? TG1, il PDL è al 24,95%, il PD al 18,05%, TG2, PDL al 27,1%, PD al 17,26%, TG3 più o meno a pari, PDL 29,22%, PD 23,65%, Rai News 24 parità assoluta. Per Mediaset, al TG5 spazio al PDL 31,99%, al PD 18%, TG4 il PDL al 62%, il PD non risulta, non pervenuto, Studio Aperto il PDL al 17,89%, il PD al 15,26%. Questi i calcoli della Gcom, c'è da dire insomma che ovviamente c'è sempre più spazio a chi ha il governo per l'attività di governo, ma secondo il Messaggero, nei TG il PDL fa l'acchiappatutto. La Gcom denuncia lo squilibrio nell'informazione pubblica e privata. In credito due deputati su tre. Voglio leggere solo questo articolo della fiumana di articoli che trovate sui redditi dei parlamentari, redditi del 2008, riferiti ovviamente i redditi del 2009, l'anno d'imposta è 2008. Sono stati resi noti ieri. Il più ricco è Berlusconi, il secondo leader di partito è Di Pietro, ma tra i più ricchi allora il primo è Berlusconi, 28 milioni e rotti, no 23 milioni, poi Santo Versace poco più di 5 milioni. Oh, questo non comprende l'indennità parlamentare, cioè sono i redditi oltre all'indennità parlamentare, tant'è vero che il nostro sondaggio è questo: secondo voi chi fa politica sostanzialmente deve far solo quello, non dovrebbe avere altri redditi? Trovate classifiche ovunque, poi la vedremo magari nel dettaglio. Secondo il Sole, l'aspetto interessante è questo: il 70% dei deputati è in credito con il fisco, al Senato poco ci manca. È uno dei dati che salta all'occhio, perché tra deduzione, eccetera, sfruttando il ginepraio di detrazioni, deduzioni che il fisco mette a disposizione di tutti, ecco che il reddito complessivo per alcuni è di credito sostanzialmente nei confronti del fisco. Ci sono quelli che investono moltissimo in azioni, come il deputato PD Colaninno, oppure il sottosegretario al Ministero dell'Economia Molgora, acquistato azioni del Banco Popolare di Sondrio, Vittoria Assicurazioni, Eni, Generali. Trovate tutto sul Sole 24 Ore, Corriere, Berlusconi più ricco, Tremonti giù. Libero addirittura pubblica tutti in ordine alfabetico e con il proprio reddito l'elenco dei deputati, i conti della casta. Libero c'era un po' su sempre, no? La casta. È il nostro sondaggio, votate su radio24.it, nella home page trovate bianco o nero. Vi chiediamo se secondo voi un parlamentare debba rinunciare per legge a tutti gli altri compensi, perché se fa il parlamentare non deve fare per esempio l'avvocato, il giornalista, l'architetto, il medico, il chirurgo, quello che volete fuori, come avviene negli Stati Uniti per esempio. Allora, scontro Parigi-Berlino sulla Grecia, rimango sul Sole 24 Ore, l'apertura è dedicata all'Europa divisa sul piano greco, a sorpresa ci racconta Adriana Cerretelli a pagina 3, niente accordo tra i 16 ministri dell'Eurogruppo per garantire gli aiuti alla Grecia. E Berlino soprattutto che frena, c'è analizzata a pagina 3 qual è la situazione sul tema finanziario molto importante, appunto del salvataggio o meno di Atene, anche se il tema finanziario del giorno sicuramente per chi ha dentro a questi temi molto, molto interessanti e che poi decidono anche le sorti finanziarie del paese è quello che sta succedendo all'interno di Unicredit. Lo racconta Alessandro Graziani nella prima pagina di Finanza e Mercati, vale a dire le tensioni sulla banca unica. Clima di tensione Unicredit alla vigilia del Consiglio d'amministrazione che proprio oggi dovrà esaminare, oltre al bilancio del 2009, il progetto Banca Unica. Perché racconta, dopo le anticipazioni date peraltro dal sito di Dagospia, si starebbero concentrando negli ultimi giorni le critiche di alcuni grandi azionisti, soprattutto i soci tedeschi, che avrebbero chiesto all'amministratore delegato Profumo di rivedere il piano rinviandone l'approvazione. Si sarebbero tra l'altro svolte, secondo indiscrezioni, riunioni nella casa milanese di Maramotti, più cautela da parte delle fondazioni. Certo, queste sono ricostruzioni, oggi c'è appunto il consiglio di amministrazione, tensioni sulla banca unica, questa è l'analisi che c'è nella prima pagina di Finanza Mercati del Sole 24 Ore di oggi su quello che sta succedendo in questo grande gruppo bancario. Siamo alle segnalazioni conclusive, vi voglio segnalare che quote rosa per i capi, la rivoluzione tedesca comincia dai telefoni, è il Corriere della Sera che annuncia che Deutsche Telekom ha deciso che entro il 2015 il 30% delle posizioni dirigenziali del gruppo in tutto il mondo sarà occupato da donne, delle vere e proprie quote rosa. Scrive il Corriere, la fissazione delle quote, se è questa la strada giusta, è un tema molto dibattuto, una questione molto discussa, ci sono paesi come i paesi scandinavi dove è stato fatto, però si è visto che in realtà sì, le donne sono più impiegate, ma non è che questo ha portato per esempio a ruoli per forza dirigenziali, ruoli di comando e anche a stipendi più alti necessariamente per le donne, però questa è la decisione di Deutsche Telekom, entro il 2015 Il 30% delle posizioni dirigenziali saranno di donne. E l'azienda tedesca ha detto: così faremo anche reclutando talenti nelle università, selezionando persone con questo obiettivo. 2015, 30% dei dirigenti in tutto il mondo saranno e dovranno essere donne. Infine, Olindo e Rosa soffrono di psicosi cronica. Domani inizia l'appello a Rosa Bazzi e Olindo Romano. Ci sono gli psichiatri che vogliono rivedere la sentenza di condanna per il massacro di Erba puntando alla infermità mentale. Ci lo segnala Repubblica a pagina 23.